In molti mi chiedono: ma tu, col passare del tempo, come automobilista, come sei? Come sono? Sono come sono sempre stato, sempre, costantemente, incazzato come una bestia. E a proposito di stress, piccola guida per guidare senza stress. So che siete in molti a seguirci in macchina, ma noi ci facciamo aiutare con preziosi consigli da Alessandra Callegari, counselor, esperta di bioenergetica e formatrice, che è in linea con noi. Benvenuta e buongiorno. Grazie Nicoletta, buongiorno a tutti. Ci sono tante ragioni che ci fanno stressare alla guida. Possiamo avere magari non aver dormito bene di notte, essere preoccupati, avere una relazione, essere in ritardo. Alessandra. Certo, quindi dipende dallo stato d'animo emotivo in cui ci mettiamo al volante, per eventi che ci possono essere capitati. Chiaramente dipende anche dal nostro tipo caratteriale, perché non dimentichiamoci, alcuni sono più irascibili, più paurosi, più timidi, anche questo entra in gioco nella guida. E poi ovviamente dipende da delle condizioni esterne, atmosferiche piuttosto che di traffico. Tutto questo, anche se non ne siamo consapevoli, influisce sul nostro stato, sul nostro stato d'animo e sul modo in cui guidiamo quando siamo al volante. Ecco allora, due semplici esercizi che possiamo fare senza neanche bisogno di fermarci e di scendere dall'automobile. Alessandra. Allora, un primo esercizio ha a che fare con la respirazione, anche perché come sappiamo la respirazione è sempre fondamentale. Quindi cosa fare quando siamo seduti sul sedile appunto dell'automobile? Entriamo in contatto col nostro addome, col nostro bacino e proviamo a bascularlo leggermente, basculare il bacino, dondolarlo in avanti e indietro, a ritmo con il respiro. Quindi mandiamo il bacino un po' indietro e questo aumenterà leggermente la nostra lordosi lombare e inspiriamo dal naso. Poi espiriamo dalla bocca in maniera molto lenta, molto rilassata, quasi facendo un sospiro, mentre basculiamo il bacino in avanti. Facciamo questo lento movimento del bacino con la respirazione per un 5-6 volte. E questo è già un modo per entrare in contatto col respiro, diciamo veramente in una modalità diversa. Il secondo esercizio che mi sento di proporre è completamente diverso, qualcuno così lo troverà un po' strano, ma in realtà è qualcosa che potremmo fare davvero tutti i giorni quando siamo stressati, ed è fare le smorfie, ovvero attivare profondamente la muscolatura facciale e la circolazione del sangue del viso, quindi aprire la bocca, lasciare anche proprio uscire dei suoni vocalici mentre facciamo le smorfie, chiudendo, aprendo la bocca, storcendo il naso, storcendo gli occhi. Lo facciamo davvero per, che dire, 20 secondi, 30 secondi, e già questo è sufficiente per modificare anche lo stato d'animo, modificare il modo in cui affrontiamo il traffico e lo stress del traffico al volante. Poi, Alessandra, questi due esercizi sono efficaci, possono essere fatti, mi sembra, anche da seduti, anche in altre situazioni, per esempio quando siamo davanti al computer, oppure quando guardiamo la TV. Assolutamente sì, anzi, mi sento di dire che oltretutto se siamo in casa e per esempio guardiamo la TV con i bambini, facciamolo con i bambini, perché è un modo di farli anche divertire, di farli ridere e in realtà di insegnare loro qualcosa che è efficace. Poi mi sento di dire, Nicoletta, è chiaro che il consiglio per chi guida lungo è di fermarsi ogni tanto, quindi se davvero passiamo delle ore al volante la cosa più saggia è comunque fermarsi, diciamo almeno, che so, una volta all'ora, all'ora e mezza, e sgranchirsi un po', perché questo più che sgranchirsi, Alessandra, come insegni tu, ce l'hai detto già in una precedente intervista, in una nostra puntata, molleggiarsi. Sì, molleggiarsi sulle gambe, quindi tenere le ginocchia flesse, che poi oltretutto è la postura corretta quando stiamo in piedi, e in questo molleggio lasciare libero il corpo, la parte superiore del corpo, di sobbalzare, compresa la testa, il collo, le articolazioni, eccetera, e in questo caso suggerisco, come avevo già detto, di fare invece una respirazione completamente diversa, veloce, breve, superficiale, solo bocca, quella che in certi casi chiamiamo cagnolino, e questo attiva la circolazione, quindi attiva l'energia e ci consente di sciogliere un po' le tensioni in maniera breve, perché lo possiamo fare veramente per, diciamo, 30 secondi, 40 secondi ed è già efficace. Quindi ricordiamoci, bacino, imparare a muovere il bacino e a respirare al ritmo. se non abbiamo voglia di fare, di muovere il bacino, ripieghiamo sul viso la faccia, i movimenti facciali con vocalizzando, e questo è un esercizio che possiamo insegnare anche ai nostri bambini, è divertente, loro rideranno come dei matti. La terza invece consiglio, che è valido per tutti, di Alessandra Callegari e di tutti gli esperti che si occupano di postura e di chi ha buon senso: se dovete fare un viaggio molto lungo, datevi delle tappe, fate delle tappe e scioglietevi molleggiando. Grazie ad Alessandra Callegari, che è stata con noi, per i suoi preziosi consigli. Ci sentiamo presto. Grazie a tutti. Buona giornata.